ci sono momenti dove le troppe domande mettono dubbi sui passi da muovere, dove un istante sembra perso dietro a troppi ragionamenti. L'istinto invece evita incidenti e stiamo sull'attenti. Sugli specchi riflessi parlano più di mille parole, ti dan forza se fuori piove di aspettare il sole. È questione di dar tempo al tempo e di avere coraggio, e quando è il tempo di prendere le scelte sul tuo viaggio. Il resto non conta, tutto è di passaggio, perché poi chi terrà il peso della scelta, il tuo braccio. La vita dà un assaggio e ti invoglia a voler sempre di più, ma di quanto necessiti e basta lo decidi tu. A volte un sapore ci accontenta con il ricordo, altre in cui il tempo ad un ricordo intenso non dà più sapore. Spesso ti guardi attorno e neanche te ne sei accorto che prima di una melodia resta solo il rumore, ma l'ardore nel cuore non fredda e battiti più caldi. L'amore è questione di quanto e come dai agli altri, senza veri scopi, senza secondi fini, ma con la soddisfazione di regalar sorrisi. A volte ci si perde per poco, ma ci si ritroverà lontano da qui in un giorno migliore che di più riscalderà. A volte ci si perde per poco, ma ci si ritroverà lontano da qui in un giorno migliore. In cui il sole riscalderà molto. Spesso le spalle al muro servono ad aprirti gli occhi su chi ti ci mette, sui suoi vari volti. Si chiudono le porte, gli spirali sono poche. Capisci che il giusto per te non è giusto per molte. Ti rafforzi perché la rabbia fa la pelle dura di quello che era veleno prima. Ora è la tua cura, provi più indifferenza, provi meno dolori. Non è più un'appartenenza, pensi ma non ti migliori. L'indifferenza chiude ogni minima prospettiva, e non provare dolore fa l'anima meno reattiva. L'appartenenza a ciò che è il posto in cui vivi non la cancelli, mentre noti con dei falsi motivi, giri e ti rigiri. Il problema non lo raggiri, è sempre lì davanti, e se non l'affronti affanna i tuoi respiri. Puoi non guardarlo, ma non sarà meglio. Vuoi il sole anche di notte, non l'avrai restando sveglio. Fai ciò che è bene, bene, dando del bene sulla terra ai piedi sotto sentirai crescere il seme. Più semplice far del male, semplice ma le gesta, dalla terra che è sotto più avanti otterrai tempesta. Ci si prende per poco, ma ci si ritroverà lontano da qui in un giorno migliore che di più riscalderà. Ci si perde per poco, ma ci si ritroverà lontano da qui in un giorno migliore in cui il sole riscalderà molto di più. Ci si perde per poco e ci si ritrova che da prima migliora la situazione. Ci si perde in troppo poco, ma quel poco basta per creare in noi troppa confusione. Di ogni cosa se ne ha solo una prospettiva, da soli tutto sembra non abbia un'alternativa. Fogli bianchi pieni di pensieri rendono carta viva. La china non servirebbe, non spiegherebbe, sì, ma resta indelebile nel cuore e nella mente quel calore da cui poi quel pensiero ne deriva. Risentirlo basta poco, arrivando alla sorgente, di conseguenza niente potrà portarti alla deriva. Tutto sta nell'ascoltarsi e nel conoscersi, rimandando se stessi mentre attorno pensa a fottersi, evolversi, andando contro paure, andando contro le più dure scelte per meno ferite future. Mentre nel petto lottano il caldo e il freddo, ogni lamento crea energia che ti alimenta dentro, nutre l'anima, allargando gli obiettivi, regalandoti il sorriso che ti spinge oltre i limiti. A volte ci si